Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Sulle pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore, Leonardo Martinelli commenta la strana coppia formata da Sarkozy, uomo di destra, e il suo ministro della cultura, Karmitz, attivista di sinistra. La nuova coppia della politica culturale francese lascia un po' perplessi. Lo ammetto, la situazione è paradossale, osserva Marine Karmitz, classe 1938, uno che il 68 l'ha fatto, ma sono stati determinanti soprattutto gli anni successivi, fino al 1973, uno di sinistra. Regista da giovane, poi è diventato uno dei più grandi produttori e distributori del cinema francese, intellettuale raffinato. Ebbene, in coppia con Nicolas Sarkozy, uno che il 68 non l'ha mai digerito, uno di destra, un intellettuale, non proprio. È successo tutto così in fretta che a Parigi non ci credono ancora. Tradimento? Pragmatismo? Lo scorso 9 dicembre, Karmitz difese a sorpresa in un'intervista rilasciata a Le Monde la riforma della TV pubblica voluta dal presidente, che ha eliminato la pubblicità serale compensando le perdite con i finanziamenti dello Stato. Vuole uccidere la televisione pubblica, dicevano a sinistra. Invece così Sarkozy la salverà, dichiarò il nostro. Era già chiaro che con la crisi il mercato degli spot stava crollando. Dopo è diventato evidente. Meno male che ora ci sono le casse pubbliche ad alimentare. Avevo ragione io, osserva oggi Karmitz. Il giorno dopo giunse una telefonata dall'Eliseo. Venne convocato da Sarko, fino a quel momento incrociato di sfuggita in rare occasioni ufficiali. Credevo che mi avrebbe ricevuto 5 minuti per dirmi che le mie parole gli avevano fatto piacere. Alla fine invece rimasi 1 ora e mezza. A un tratto si palesò pure l'ineffabile Carlà. Dissi a Sarkozy che la politica non deve stare nel cuore della cultura, ma che la cultura deve ritrovarsi al centro della politica. Peccato che in questo paese da 20 anni manchi una vera politica culturale. Sarkozy rimuginò. Il 13 gennaio scorso doveva pronunciarsi sul tema. 48 ore prima chiamò Karmitz e gli propose di animare un nuovo consiglio per la creazione artistica, presieduto da Nicolas in persona. Marine, l'ex esponente della gauche prolétarienne degli anni 70, comunista e poi maoista, quello che girò Coup pour Coup, cronaca di un drammatico sciopero in una fabbrica del tessile, accettò. Anticonformista, controcorrente, come quando nel 1986, ascoltato consigliere di Mitterrand, contestò la sua scelta del modello italiano per la televisione privata francese e la sua passione per Berlusconi, al quale concesse di mettere sulla Senk. Dopo di allora non fui più ricevuto all'Eliseo. Anche lì me ne dissero di tutti i colori, da sinistra. Pure lì avevo ragione io. Eccolo pronto alla nuova sfida. Vogliamo fare un bilancio dell'esistente, poi raccogliere le idee degli artisti e varare qualche progetto pilota. La Francia è invidiata da chi fa cultura nel resto d'Europa per i finanziamenti generosi concessi dallo Stato. Ma questo non impedisce che Parigi, in molti campi, abbia perso diversi treni. Sì, rispetto a New York, Londra. E ora anche al confronto con Berlino. In settori come il teatro e la musica, invece, esiste un grande fervore in tante città di provincia, ma restano progetti troppo isolati, non connessi fra loro. A far parte del consiglio di Karmitz ha chiamato provinciali come Jacques Blanc, direttore del Quartz di Brest, centro culturale all'avanguardia, e parigini come Dominique Hervieux, direttrice del Teatro Nazionale di Chaillot, l'unica donna. Ne ho convocate tante altre, ma non hanno accettato. Hanno ricevuto pressioni soprattutto dalla sinistra. Che triste. Nella mia società MK2, praticamente tutti i posti di responsabilità sono occupati da donne. Secondo Karmitz, non bisogna parlare di soldi e poi dei progetti culturali che possono nascere, ma occorre partire dai progetti e in seguito trovare i mezzi per realizzarli. La politica culturale francese è sempre stata contraddistinta da investimenti pesanti per creare infrastrutture enormi diventate presto obsolete e troppo care da mantenere. Nell'ottobre scorso, a Parigi, è stato inaugurato il 104, l'ennesimo immenso centro culturale, costato 120 milioni di euro, più 12 di spese all'anno, già considerato un mezzo flop. I tempi sono cambiati, ci vogliono strutture più leggere. Uno dei sogni nel cassetto di Karmitz è la creazione di una piccola scuola di cinema nella Péniche utilizzata dal regista Abdelatif Béchiché nel film Couscous. Sarebbe bello portarla a Parigi e parcheggiarla davanti a qualche quartiere popolare. Scuole di cinema ce ne sono già, ma solo per laureati, esclusive, costose. Bisogna cambiare. Pragmatico Carmiz lo è sempre stato, o forse lo è diventato per necessità. Figlio di ebrei rumeni, che fuggirono l'antisemitismo prima dei nazisti e poi dei sovietici, si ritrovò a 9 anni in una grande nave salpata da Costanza. Una storia tipo Exodus, ricorda. Facemmo tutto il Mediterraneo, ma nessuno ci voleva far scendere. Solo a Marsiglia finalmente accettarono. Era il 1947. Il piccolo Marin non sapeva una parola di francese. Da grande fece studi di cinema e fu assistente di Jean-Luc Godard. Alla fine degli anni 70 fondò la sua società di produzione, viste le difficoltà nel trovare sostegni ai suoi lungometraggi impegnati. Nel 1977 distribuì in Francia Padre Padrone dei fratelli Taviani. Lo portò a Cannes, dove vinse la Palma d'Oro con Roberto Rossellini presidente della giuria. Per noi quel film fu una svolta. Fino ad allora non avevamo un soldo. Padre Padrone, invece, ebbe un successo incredibile. Iniziò la sua corsa folgorante come imprenditore. MK2 è oggi un riferimento anche per le sue 58 sale parigine, ripartite in diversi complessi dove, oltre a vedere un film, si possono comprare libri, seguire corsi di filosofia, mangiare in un buon ristorante. Marin ha fatto i soldi, tanti soldi, come ha scritto malignamente Le Monde. Vive nel suo hotel particulaire del quartiere latino e i suoi invitati sono serviti da camerieri in guanti bianchi. «Io non sono cambiato», ribatte. «Resto sempre ai margini e cerco di influenzare il centro, il potere». Anche con la nuova esperienza del Consiglio, pure con Sarkozy. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Leonardo Martinelli dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Per protestare contro il regime di Mubarak, 70.000 giovani egiziani si coalizzano su Facebook. «23 luglio 2008. Sotto il sole cocente di una spiaggia di Alessandria d'Egitto, poche decine di attivisti scattano foto digitali e chiacchierano nervosamente. Molti indossano magliette bianche con l'immagine di un pugno alzato e le parole «Gioventù 6 aprile» impresse sulla schiena. Alcuni costruiscono un gigantesco aquilone con canne di bambù e un telo di plastica dipinto con i colori della bandiera egiziana. La maggior parte ha tra i 20 e i 30 anni, alcuni sono più giovani». Il gruppo non è ancora riuscito a far alzare l'aquilone e a distribuire volantini a favore della democrazia e già la spiaggia brulica di poliziotti urlanti. La minuscola dimostrazione viene subito dispersa. L'aquilone, gli attivisti non sono riusciti a farlo volare. Unendosi ad altri amici, marciano fino al quartiere di Loran, cantando inni patriottici. Un drappello di agenti della sicurezza sbuca dal nulla, volano pugni e spintoni. Una decina di ragazzi cade e viene bloccata a terra. In 30 si sparpagliano, correndo per centinaia di metri in ogni direzione. Quelli che non ce l'hanno fatta a scappare vengono spinti in un furgone e in 2 auto. Gli agenti della sicurezza urlano «Dov'è Ahmed Maher?». 3 ore prima dei tafferugli e degli arresti, Ahmed Maher cammina svelto verso un malconcio palazzo di uffici su Aboukir Street, ad Alessandria. Ha una borsa da postino gettata a tracolla sulla camicia bianca a maniche corte. Butta la sigaretta per terra prima di salire i gradini di marmo. Parla a voce bassa con gli attivisti suoi compagni davanti alla porta di un ufficio, ma il suo arrivo ha un effetto galvanizzante. Lui è qui. Nel marzo scorso, Maher e un amico hanno lanciato su Facebook un gruppo per promuovere un'azione di protesta in programma il 6 aprile. Il gruppo è diventato un fenomeno, attraendo in poco tempo oltre 70.000 iscritti. Il movimento 6 aprile, nel giro di qualche giorno, si è sviluppato fino a trasformarsi in qualcosa di tanto influente da suscitare le ire delle forze di sicurezza egiziane. Maher fa parte di quella nuova generazione che in Medio Oriente usa internet come strumento di lotta. Blog, YouTube, Flickr, Twitter e ora Facebook. La nascita di questa tecno-ribellione ha innescato una repressione governativa e attirato l'attenzione del mondo. Il presidente egiziano Hosni Mubarak è al potere da quasi 30 anni e dal 1981 governa con leggi di emergenza. Il regime di tanto in tanto viene richiamato da Europa e Stati Uniti per il suo pessimo atteggiamento nei confronti dei diritti umani. Ma Mubarak è anche considerato un alleato prezioso per le sue posizioni su Israele e sul terrorismo. Maher, 27 anni, è un ingegnere civile che lavora per un'impresa di costruzioni. Qualche volta non si è presentato al lavoro e alcuni giorni quasi dorme in piedi dopo aver passato un'altra notte al cybercaffè. Maher è preoccupato solo di una cosa. Se venisse licenziato, come potrebbe mantenere la moglie e il figlio? I gruppi di opposizione in Egitto sono pieni di contrasti interni. Il gruppo 6 Aprile, invece, ha beneficiato del fatto di essere composto da giovani, quasi sempre con nessuna o pochissima esperienza politica, e di avere un messaggio di solidarietà per i lavori e i poveri che rendeva facile cliccare «Sì, ci sono anch'io». La facilità di adesione ha però vantaggi e inconvenienti. A prima vista questa forma di attivismo online può sembrare una militanza all'acqua di rose, ma in Egitto questi raduni virtuali non sono una cosa da poco. Non è un'impresa facile unire 70.000 persone in un paese in cui l'azione collettiva è così rischiosa. Il social network ha cambiato le cose, sta cambiando le dinamiche del dissenso politico. I corpi di sicurezza di Stato erano al corrente della dissidenza online, ma furono colti di sorpresa da Facebook. Negli ultimi anni gli agenti avevano concentrato le intimidazioni sui singoli individui, specialmente su blogger con un seguito significativo. Ma il social network era una cosa nuova, uno strumento sottovalutato. Maher sapeva che gli uomini della sicurezza sarebbero venuti a cercarlo. Così il 7 maggio si allontanò da casa e non vi tornò per parecchi giorni. In aprile, per sicurezza, aveva spedito la moglie e il figlioletto a vivere dai suoceri. Da allora si era rintanato nei cybercaffè e aveva dormito sui divani degli amici. Quella mattina doveva rientrare al lavoro. Quando era quasi arrivato, avvistò nel retrovisore una Peugeot che stava accelerando. Un attimo dopo, un minibus gli tagliò la strada. Uomini rasati a zero e con gli occhiali da sole circondarono la sua auto. Lo trascinarono fuori e lo presero a pugni. Poi lo caricarono sul pulmino, gli bendarono gli occhi e gli legarono le mani dietro la schiena. La notte di detenzione fu molto dura. Maher fu spogliato, picchiato, minacciato di torture. Volevano la sua password di Facebook. Al mattino, Maher la rivelò e le autorità lo rilasciarono. Dopo il 4 maggio e la caccia a Maher, si cominciò a parlare di una nuova legge sulla censura. Se fosse passata, avrebbe conferito a un'autorità di controllo suprema il potere di arrestare chiunque avesse diffuso informazioni anche attraverso un gruppo di Facebook. La vendetta governativa ha però messo in imbarazzo il regime. Molti egiziani stanno facendo il tifo per questi ragazzini idealisti e la stampa internazionale guarda con favore alla loro causa. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di David Wallman, Cerco amici per la rivoluzione, da Wired, edizione italiana numero 1, marzo 2009.